Mercoledì, terza settimana, vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Artefice e Signore della terra e del cielo, aurora inestinguibile, giorno senza tramonto, dona alle stanche membra la gioia del riposo e nel sonno rimargina le ferite dell'anima. Se le tenebre scendono sulla città degli uomini, non si spenga la fede nel cuore dei credenti. Te la voce proclami, o Dio trino e unico, te canti il nostro cuore, te adori il nostro spirito. Amen. Prima antifona. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Seconda antifona. Custodisci, o Dio, la nostra casa. Custodisci la tua città. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Custodisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città. Terza antifona. Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo. Lettura breve. a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi. A Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Responsorio breve. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Non abbandonarmi con i peccatori. Abbi pietà di me. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Antifona al Magnificat. Ha fatto in me cose grandi, colui che è potente, e santo è il suo nome. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intercessioni. Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ci ha mandato il proprio Figlio, modello e Salvatore del suo popolo. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del Tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra primizia. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Concedi a coloro che confessano il Tuo santo nome la concordia nella verità e la solidarietà nel Tuo amore. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Creatore dell'universo, il Tuo Figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio di fratelli, perché l'insuccesso e l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Ti preghiamo, o Signore, per i nostri fratelli defunti. Apri loro le braccia della Tua misericordia. Continua i benefici della Tua bontà, o Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. Salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedizione finale. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.